stella del mio cuore. Tu non li ascoltare, calunnieranno il mio nome, diranno cose non vere, vorrebbero annientare tutti i raggi del sole, vorrebbero bruciare tutte le mie idee. Non ti scriverò lettere d'amore, resisto, resisterò alla tortura di ogni dolore, mai rinuncerò anche a costo di morire. Cara, ora sai da quale parte troverai sempre il mio cuore. Senza libertà siamo solo fine, nulla vuoto siamo, siamo solo spine. Non vivrò mai nella loro acida illusione, nel loro macabro oggi, nella loro misera visione. Cara, restami amore, lasciamoci ma restiamo insieme. Per te scaverò nei cieli, se dovessi morire nelle prigioni. Non ti scriverò lettere d'amore, resisto, resisterò alla tortura di ogni dolore, mai rinuncerò anche a costo di morire. Cara, ora sai da quale parte troverai sempre il mio cuore. Per un mondo migliore, per l'umanità che muore in ogni istante della mia vita, abbraccerò il tuo cuore. Non ti scriverò lettere d'amore, resisto, resisterò alla tortura di ogni dolore, mai rinuncerò